Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Questa è la canzone di Cemento Armato, è la bellezza che toglie il fiato. Un vecchio amico perso ritrovato. Questa canzone è un bimbo che non vuole essere picchiato. Questa è la canzone rudimentale, una canzone che non fa male, ti fa sentire come un temporale, uguale a tutti e a tutto disuguale. Non mi piace la musica italiana, perché mi piaci solo tu. Solo tu. L'industria discografica italiana allo sbando ed io non sono affatto giù. Canto nel cemento armato perché la plastica non vince. Perché la plastica non mi convince, la lascio masticare a questo trecce che pensa di essere cristallo, ma sono solo schegge. È iniziata la seconda parte di Eclettica ed è iniziata all'italiana con Nano, un nuovo pseudonimo sulla scena discografica, ma dietro c'è un artista che ben conosciamo anche sotto altre vesti. Già ve ne ho parlato e come faccio spesso non sto qua a ripetermi. Canzone di Cemento Armato è comunque il titolo del pezzo che ci siamo appena ascoltati. Ora una bella novità qua in Eclettica, che vi ricordo va in onda tutti i giorni fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM in compagnia di Giulio Caperdoni. Una bella novità, vi stavo dicendo, proviene da Philadelphia, loro si chiamano Creeping Weeds e questa è I'm a Donkey for Your Love. They told me about the strawberry fields, living in a mixtape and picking all the fruit that yields. I made a tape so you could see it was real. I dubbed you a copy just so you could see how I feel. Bye. It came in the summer like a disaster. Your heart was broken, mine was numb. She's Miss Louisiana. She wore a bright bandana and said, I'm not taking no. As I should have known her, sister was quite a comrade. Finalmente ero di ritorno, dopo un'assenza di 2 settimane. Già da 3 giorni i nostri si trovavano a Rulottenburg. Credevo di essere atteso con chissà quale ansia, e invece mi sbagliavo. Il generale mi accolse con una disinvoltura eccessiva, mi parlò squadrandomi dall'alto in basso e mi mandò da sua sorella. Era evidente che in qualche luogo erano riusciti a procurarsi del denaro. Questo era l'incipit del Giocatore di Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. In space, Rocky went up. In smoke for the crowd. With lunar ideas he got lost. With pinball eyes and lots to see. I'm coming up on you. There's not a thing that you can do. I'm coming up on you. Ah. Hey. Yeah. thank you very much. Now, why don't you make like a tree and get out of here? It's leave, you idiot. Make like a tree and leave. You sound like a damn fool when you say it wrong. All right, then, leave! Se qualcuno si ponesse la domanda: ma come mai questa trasmissione si chiama Eclettica? Se la ponesse perché è nuovo all'ascolto, questi sarebbero minuti buoni per riuscire a capirlo, perché per esempio è appena passato Dan Le Sac vs. Scrobius Peep con Thou Shalt Always Kill, brano proveniente dall'Inghilterra, prima ancora 17 Evergreen con Lunar One, ed ora stiamo per ascoltare una vera produzione lo-fi, nel senso che i mezzi erano pochi, i soldi erano pochi e quindi di conseguenza le registrazioni sono poco più che artigianali. Lei si chiama Joss, proviene dalla Svezia, esce con un EP per la Saft Kalas Recordings che contiene diverse tracce scritte direttamente da lei e anche una cover di Stevie Wonder. Noi in Eclettica ci ascoltiamo una delle tracce che lei, Joss, ha scritto. Si tratta di You Had a Plan. D'accordo. Fin tanto che lei è ancora qui, va tutto bene. Vado lì e la guardo in ogni momento, ma domani la porteranno via e io come farò a restare solo? Per il momento lei è lì nella sala, sulla tavola, due tavoli da gioco fatti combaciare. La bara è per domani, una bara tutta bianca con Gros de Naples bianco. Ma no, ma cosa sto... Cammino e cammino, cercando di chiarirmi la cosa. Sono già 6 ore che cerco di chiarirmi, ma non riesco a riordinare i pensieri in un punto. Questo era l'incipit della Mite di Fyodor Mikhailovich Dostoevskij. Certainty to abuse of everything. details structure my mind without to be mine between dust as no just a shade just a Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 5, volume numero 3. Indice. Government Mule assieme a Michael Franti. Tallycraft. Emily Haynes and the Soft Skeleton. Canadians. Fog. Bonnie Prince Billy. The State of Samuel. Nano. Creeping Weeds. 17 Evergreen. Dan Lesac vs. Scroobius Pip. Joss. Q